Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza Covid, cresce la pressione per un lockdown nazionale. 5 nuove regioni arancioni, il Viminale, controlli più serrati sugli assembramenti. Vaccini, accordo per portare in Italia 1,5 milioni di dosi del vaccino Pfizer a gennaio, ma la logistica italiana non è ancora preparata alla distribuzione. Smog, la Corte europea boccia l'Italia, tra il 2008 e il 2017 violati sistematicamente i limiti delle polveri senza contromisure. Cala la produzione industriale a settembre, meno 5,6%, resta però il forte rimbalzo del trimestre, più 28%. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, sono 5 le regioni che diventano da domani arancioni, si tratta di Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Umbria. Una decisione per quanto riguarda la Campania è attesa per oggi. Questo è l'esito del monitoraggio dei dati regionali effettuato dalla cabina di regia, ma la situazione è in evoluzione. Tra poco sentiremo anche le parole del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, che sta parlando proprio in questi minuti, mentre cresce la pressione, soprattutto da parte del personale medico, per un lockdown nazionale. Sentiamo. Da domani l'Italia cambia di nuovo colore con il passaggio in zona arancione di 5 regioni, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, dove per 2 settimane vigerà il divieto di uscire dal proprio comune e la chiusura di bar e ristoranti. La provincia di Bolzano entra invece in zona rossa insieme a Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta, che già lo sono. Mentre in giornata è attesa la decisione sulla Campania, che potrebbe anche compiere un salto direttamente in zona rossa, ipotesi auspicata dal sindaco di Napoli De Magistris, secondo il quale solo così si potrà salvare un territorio flagellato dal virus. Decisioni prese sulla base del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha confermato come l'epidemia in Italia sia in rapido peggioramento, con criticità ormai evidenti in numerose regioni. Intanto i medici continuano a chiedere un lockdown generalizzato, ipotesi che il governo finora aveva cercato di escludere, ma se la curva epidemiologica non dovesse invertire la rotta, potrebbe essere presa nuovamente in considerazione a partire dal 15-20 novembre. Tutto dipenderà dall'andamento del virus in risposta anche alle ultime misure, dice oggi il viceministro alla salute Sileri. Se dovesse esserci un rapido peggioramento, si dovrebbe agire. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E dopo le buone notizie di ieri sul fronte dei vaccini anti-Covid, con i primi risultati positivi anticipati dalla sperimentazione di fase 3 del vaccino tedesco-americano Pfizer-BioNTech, oggi arriva uno stop a quello cinese in corso di sperimentazione in Brasile, ma sul fronte Pfizer ci sarebbe anche un accordo per portare in Italia già ai primi di gennaio le prime dosi, 1,5 milioni di dosi. Più ci si avvicina a questo appuntamento, però più cresce l'importanza per gli aspetti legati la distribuzione su vasta scala. In particolare il vaccino Pfizer necessita di temperature molto basse, meno 80 gradi centigradi. Abbiamo chiesto a Pierluigi Petrone, che è presidente di Assoram, l'associazione degli operatori commerciali e logistici della distribuzione primaria dei prodotti farmaceutici, se secondo lui l'Italia effettivamente è pronta. Sentiamolo al microfono di Rosanna Magnano. La Germania ha già identificato 60 centri vaccinali, di cui soltanto 15 nella città di Berlino. Allora, dico io, ma è possibile che l'Italia non è stato ancora convocato un tavolo interassociativo per poter definire quelle che saranno le linee guida di questo piano nazionale per la distribuzione vaccinale? Per quanto riguarda invece la catena del freddo, che cosa manca da un punto di vista proprio della logistica e anche industriale in Italia? Innanzitutto dobbiamo anche capire quante dosi saranno allocate per il paese Italia. Però la stessa Pfizer ha già individuato 2 siti, uno negli Stati Uniti e uno in Europa, in Belgio, che già si è attrezzato per poter stoccare questo prodotto, diciamo, prima che vada poi fisicamente sul mercato distributivo, dove verrà decongelato e portato a 2-8 gradi. Perché parliamoci francamente, se il vaccino avrà una stabilità tale da poter essere conservato in cold chain, quindi frigo normale, come tutti gli altri vaccini, da 2-8 gradi in 5 giorni, 6 giorni, ci sono tutte le tempistiche che i corrieri, che Assoram o gli altri operatori logistici in Europa utilizzeranno per arrivare a destinazione del singolo centro vaccinale. L'Italia è vicina alla soglia critica per quanto riguarda ricoveri e terapie intensive, lo ha detto poco fa il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ve l'avevamo accennato, stanno parlando proprio in questi minuti, lui e Locatelli, sentiamo allora un passaggio dell'intervento di Brusaferro. In tutto il Paese la crescita è molto significativa e in alcuni casi, come vedete, raggiunge anche un numero molto sopra i 1000 casi per 100.000 abitanti. Impatto sui nostri servizi sanitari e in particolare terapia intensiva è quello delle ricoveri di area medica. E vedete che in qualche modo la curva è molto ripida, sta crescendo rapidamente e anche le percentuali di occupazione medie italiane crescono, come vedete, parallelamente, si avvicinano rapidamente alle soglie critiche cosiddette. Poi ci sono i valori regionali che ovviamente in alcuni casi hanno già superato queste soglie. Fronte economico torna a scendere, ahimè, la produzione industriale che dopo 4 mesi di recupero segna a settembre un calo del 5,6% rispetto ad agosto, lo ha reso noto poco fa l'Istat. Nonostante il calo di settembre, tuttavia il trimestre iniziato a luglio positivo mantiene un forte segno positivo, fa sapere ancora l'Istat, con un più 28,6%. Ed è in vigore proprio da oggi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto Ristori Bis, 2,5 miliardi di aiuti alle categorie interessate dalle chiusure. Il decreto Ristori Bis da 2,5 miliardi da oggi è in vigore. Scattano così i nuovi aiuti per le attività e le categorie colpite dalle restrizioni decise dal governo con l'ultimo DPCM per contrastare la seconda ondata Covid. In caso di ulteriori strette e nuove zone arancioni e rosse, l'esecutivo ha previsto un fondo da 410 milioni per gli indennizi. Ma all'orizzonte c'è l'ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio dopo la decisione di inserire 5 regioni nella zona arancione e la possibilità di ulteriori strette legate all'andamento della pandemia. Il decreto Ristori Bis prevede inoltre contributi a fondo perduto, cancellazione della seconda rata dell'IMU, risorse per il pagamento delle locazioni. Sul fronte fiscale, nelle zone rosse, sospesi i versamenti di IVA e ritenute scadenza a metà novembre anche per alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, attività queste non esplicitamente chiuse dall'ultimo DPCM. E sul fisco interviene l'opposizione. La Lega propone al governo di procedere con un taglio dell'IVA. Sarebbe una boccata d'ossigeno, sostiene Matteo Salvini, per famiglie e imprese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora andiamo all'estero. Due le notizie: l'accordo di pace in Nagorno-Karabakh e l'offensiva di Donald Trump sul fronte legale dopo la vittoria di Joe Biden comincia facendo causa contro la Pennsylvania, accusata di avere violato la Costituzione. Iniziamo da qua. La battaglia per la presidenza degli Stati Uniti non è ancora terminata. La campagna di Donald Trump ha infatti fatto causa al segretario di Stato della Pennsylvania per violazione costituzionale. Il sistema di conteggio dei voti per posta, questa l'accusa, sarebbe stato meno rigoroso di quello dei voti in persona. Trump, che comunque non esclude di ricandidarsi nel 2024, ha licenziato il capo del Pentagono Mark Esper e minacciato i vertici di CIA ed FBI. C'è poi il ministro della Giustizia Barr, che autorizza ad indagare su accuse rilevanti di frode elettorale che, se riscontrate, potrebbero potenzialmente impattare sul risultato elettorale. Per la speaker della Camera Nancy Pelosi, Trump intende usare gli ultimi giorni del mandato seminando caos nel paese e nel mondo. Joe Biden intanto prepara la transizione e nelle prossime ore interverrà ad un evento a difesa dell'Obamacare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora dicevamo dell'accordo di pace raggiunto, un accordo per una realtà, un cessate il fuoco tra l'Armenia e l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato oggi il presidente russo Putin, annuncio confermato anche dal premier armeno, che parla però di un accordo doloroso, mentre la folla ha invaso la sede del governo armeno a Erevan per protesta. Sentiamo. L'intesa firmata tra Armenia e Azerbaigian per mettere fine ai combattimenti in Nagorno-Karabakh è di importanza storica, una svolta che porterà pace e solidarietà duratura per il presidente azero Aliyev. È invece un accordo doloroso per il primo ministro armeno Pashinyan. Una soluzione comunque che pone fine a scontri che hanno causato centinaia di morti. Intanto ad Erevan la polizia armena ha ripreso il controllo della sede del governo e del Parlamento dopo l'irruzione della folla inferocita per la firma del cessate il fuoco. Al grido di mettetevi, subito dopo l'annuncio dell'accordo, i manifestanti hanno saccheggiato e vandalizzato gli uffici e hanno aggredito il presidente del Parlamento armeno Mirzoyan. L'intesa prevede che Armenia e Azerbaigian si scambino i prigionieri e si restituiscano reciprocamente le salme delle vittime del conflitto. A benedire l'accordo, oltre alla Turchia, il presidente russo Vladimir Putin, che ha cominciato a dispiegare il suo contingente di pace nel Nagorno-Karabakh, in contemporanea con il ritiro delle forze armate armene. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora con la cronaca torniamo in Italia. È morto a Roma il presidente dell'UNICEF Italia, Francesco Samengo, ucciso dal Covid. A darne notizie della stessa UNICEF, era ricoverato all'ospedale Spallanzani. In Liguria adesso pagavano i dipendenti 4-5 euro l'ora per lavorare sugli yacht di lusso. La Guardia di Finanza per questo ha eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti appartenenti ad una banda dedita al caporalato. La Corte di Giustizia Europea torna a bacchettare l'Italia per la violazione dei limiti antismog. Sentiamo. L'Italia ha violato la direttiva europea sulla qualità dell'aria poiché i valori limite del PM10 sono stati superati in maniera sistematica e continuata tra il 2008 e il 2017. Lo stabilisce la Corte di Giustizia europea in una causa avviata nel 2014 dalla Commissione nei confronti dell'Italia in ragione appunto del superamento continuato dei valori limite fissati per le particelle PM10, le cosiddette polveri sottili. Secondo la Commissione, il nostro Paese non ha adottato in tempo utile le misure necessarie a garantire il rispetto dei valori. Ritenendo insufficiente i chiarimenti forniti dall'Italia nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione nel 2018 ha fatto ricorso alla Corte che l'ha accolto. I giudici di Lussemburgo non hanno dato rilevanza alle giustificazioni avanzate dall'Italia, che ha invocato l'estensione limitata delle aree di superamento dei limiti, concentrate in pianura padana e non estese a tutto il territorio nazionale. Per la Corte europea, infatti, il superamento anche nell'ambito di una sola zona è sufficiente perché si possa dichiarare un inadempimento della direttiva sulla qualità dell'aria. La soglia media annuale per il PM10 imposta dall'UE è di 40 microgrammi per metro cubo, quella giornaliera di 50 microgrammi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:12 minuti in chiusura di questa prima parte, una notizia appena arrivata. Vi stavamo parlando della conferenza stampa di Brusaferro e Locatelli. Ebbene, c'è anche una buona notizia, nel senso che Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, dice l'indice RT appare in Italia stabile, quindi l'accelerazione marcata è venuta meno, cioè decelerazione frutto delle misure poste in essere. Dunque una buona notizia. Noi dopo la pausa torniamo con tutte le altre notizie, vi racconteremo l'incredibile storia dei tracciatori, chi sono lo scopriremo tra un attimo, che dovevano essere assunti. 349-238-6666 per i vostri messaggi, tra poco. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, l'RT in Italia è stabile, segno che c'è decelerazione, dice il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli, merito delle misure adottate. Vaccino Pfizer, accordo per portare in Italia 1,5 milioni di dosi a gennaio. Il caso dei tracciatori al bando, da 2.000 posti si presentano 50.000 persone, ma dopo 2 settimane ne sono stati assunti appena 450, ne parliamo tra poco. Minuti, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, come avete sentito, cresce la pressione perché l'Italia adotti un lockdown nazionale, pressione che arriva soprattutto dai medici, ma noi sappiamo che l'alternativa al lockdown è aumentare il controllo e il contrasto sanitario dell'epidemia. Più forze sanitarie in campo hai, meno sei costretto a chiudere, più puoi invece convivere col virus cercando di tenerlo a distanza. Uno degli strumenti è il tracciamento dei casi. Ebbene, proviamo a spiegarvi cosa è successo su questo fronte, anzi cosa non è successo. Il 24 ottobre la Protezione Civile, su richiesta del Ministro delle Autonomie Bocce, di quello della Salute Speranza, pubblica un bando per il reperimento urgente di forze da impiegare nel tracciamento. 1.500 tra medici e infermieri, 500 amministrativi, 2.000 in tutto. In Germania ne sono stati assunti 10.000. Da noi si ritiene sufficiente assumerne 2.000. Peccato, perché stiamo parlando non solo di uno strumento di controllo sanitario che ci garantisce libertà e salute, ma anche di una opportunità occupazionale. Tanto che a questo bando rispondono 49.000 persone, sono tutti disoccupati, liberi professionisti o anche inoccupati. 9.000 medici, 2.000 infermieri, 2.000 assistenti, 8.000 studenti, 26.000 amministrativi. Ebbene, con una così alta partecipazione nel pieno di una emergenza sanitaria, quanto tempo ci vorrà per assumerli? Poco, si spera. E invece no, perché stando a quanto riportato da diversi mezzi di informazione, siamo a meno di un quinto del totale assunti dopo due settimane. Molte regioni sono rimaste addirittura inerti. La Toscana, una tra le più attive, ne ha assunti 242, 51 in Veneto, 42 nelle Marche, 27 in Umbria, 25 in Liguria. Può darsi che mentre parliamo alcuni di questi numeri sono cambiati. Abbiamo cercato di parlare con diverse fonti, ma non è stato semplice avere notizie. Ci sono anche regioni come la Puglia, clamorosa, che chiude le scuole perché non riesce a contenere l'epidemia e non assume nessun tracciatore. A zero sono anche la Campania e la Calabria, pure il Piemonte. Ma perché nessuno li ha assunti? Il problema sembrerebbe di carattere burocratico. Difetti di comunicazione tra il sistema sanitario centrale e quello regionale, addirittura pare mancanza di personale che faccia le selezioni per assumere queste persone. Ne parliamo con l'assessore alla salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, voi quanti di questi tracciatori siete riusciti fin qua ad assumere? Allora, noi ad oggi sono 86, di cui 23 amministrativi e 63 sanitari. Dei sanitari 20 sono medici, 24 sono infermieri e 19 sono tecnici della prevenzione. Ecco, ma rispetto alle quote che vi spettano in qualche modo, a che punto siete di questo, diciamo, percorso da compiere che ogni regione deve fare per poter rafforzare questa funzione fondamentale del tracciamento? Assolutamente, la funzione è fondamentale, noi siamo a metà del percorso, circa il 50%, la procedura è un pochino farraginosa perché vanno chiamati questi professionisti da questo elenco che ci è stato fornito dalla Protezione Civile e a volte non è molto semplice, diciamo, avere la disponibilità, il contatto, la reperibilità e alcuni, diciamo, non, pur essendo presenti nell'elenco, dichiarano di avere già altre iniziative in corso e di non poter ottemperare, diciamo, alla richiesta, per cui insomma c'è un po' di difficoltà, ma alla fine speriamo di, nell'arco di 15 giorni, di poter completare. Ecco, ma non pensa che in qualche modo, non dico che sia un'occasione perduta, perché stiamo tutti lavorando, state lavorando per realizzare queste assunzioni, per avere questi 2.000 tracciatori in più. Faccio però un esempio che diciamo poco fa: in Germania sono state assunte 10.000 persone. Questa è anche un'opportunità occupazionale in questo momento qua, di far lavorare delle persone. Per ora, dati ufficiali, siamo quasi a un quinto di quelli che potevamo assumere, il totale 2.000, non sono pochi? Sì, io sono d'accordo con lei, questa è un'attività fondamentale sia per il contrasto al virus e anche, diciamo, per ricreare una rete territoriale di sorveglianza che è assolutamente importante. Lo dico da una regione che ad oggi ha avuto oltre 1.300.000 di casi testati e noi abbiamo il 70% della nostra attività di casi positivi che deriva da screening, per cui è assolutamente essenziale potenziare questo servizio. Anche perché, assessore, l'alternativa sembra essere, cioè, meno strumenti di, diciamo, contrasto sanitario si hanno, più siamo costretti a chiudere l'attività, bloccare le persone in casa per evitare, perché il virus va avanti, comunque non è che si ferma, quindi o lo contrastiamo con questi sistemi oppure dobbiamo chiuderci in casa. Cresce un po' la pressione sul governo per andare verso un lockdown nazionale. Qual è il suo punto di vista su questo? È d'accordo? Ma noi purtroppo siamo sempre su un crinale di equilibrio tra la tenuta socio-economica del paese e la tenuta sanitaria. Noi finora come Regione Lazio stiamo ancora all'interno di un contesto considerato di aria gialla e per noi è molto importante il rigore dei comportamenti perché si può andare rapidamente in zona rossa. Dipende molto dai prossimi 15 giorni. Un'ultima cosa, poi ci salutiamo, assessore. Voi siete area gialla, la sua regione ci state cercando di tenere, però abbiamo notizia, per esempio, in un ospedale di Latina dove ci si sta organizzando per mettere i letti, diciamo, ovunque sia possibile, perché il reparto è pieno. Quindi è comunque una situazione. Sì, ma area gialla non è che significa disco verde, né significa essere migliori di altri. Noi siamo tutti sulla stessa barca, non è che diciamo ci sono i buoni e i cattivi, lo diciamo solamente in ambito di un andamento epidemiologico. Noi ad oggi siamo su un plateau dei casi giornalieri e con una RT a 1.3, però ripeto, non è questa una condizione certo da farci stare tranquilli perché c'è una pressione molto forte sulla rete ospedaliera. Grazie assessore D'Amato, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, grazie. E vabbè, vedo anche messaggi, anche dei messaggi, c'è anche un po' di ironia, no? Perché sembra veramente incredibile. Un ascoltatore dice: propongo un concorso per assumere il personale dedicato all'assunzione del personale mancante, eccetera, eccetera. Cioè, è una catena che potrebbe. Perché qua sembra che manchi il personale che deve selezionare il personale mancante. Cioè, vi rendete conto? Comunque. Un altro ascoltatore chiede la Lombardia se ha assunto i tracciatori. Nell'elenco che ha fatto prima non è stata nominata la regione più contagiata d'Italia. Grazie Alessandro da Monza. Non abbiamo notizie. Abbiamo cercato stamattina di parlare con diversi assessori alla salute e anche col ministro Boccia, che però non è voluto intervenire per fare un chiarimento nazionale su questo scandalo dei tracciatori che dovevano essere assunti in tempi rapidi perché c'è bisogno adesso, ma dopo 2 settimane abbondanti dal bando ne sarebbero stati assunti meno di un quarto. Adesso invece è con noi Ugo Taddei, responsabile del progetto Qualità dell'Aria di Client Earth, che è una ONG che si occupa proprio di qualità dell'aria e di ricorsi dei cittadini, di cause anche contro i governi locali e nazionali su questa questione. Taddei, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Eccolo, allora, la notizia è questa, no? Ne abbiamo parlato nel corso della prima parte di Effetto Giorno nel giornale radio. C'è stata una sentenza oggi da parte della Corte Europea di Giustizia che è, come dire, la prosecuzione di un ricorso, anzi di una procedura di infrazione, mi sto ingarbugliando anch'io, nata, se non sbaglio, nel 2014 a parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia. Perché, Taddei? Sì, la sentenza di oggi è chiaramente il risultato di anni di gestione fallimentare delle politiche di qualità dell'aria. Dal 2005 ci sono delle norme che vincolano il governo italiano a rispettare dei limiti massimi di particolato nell'aria. Sì. Purtroppo siamo in sforamento continuo e sistematizzato in vaste parti dell'Italia. Tutto il bacino padano, la regione Lazio, la Campania, la Lombardia, il Veneto, tutte le città italiane grandi hanno problemi di qualità dell'aria. Ecco, però l'Italia aveva, diciamo, detto è una zona solo dell'Italia, non è tutto il paese, aveva, diciamo, portato delle scusanti dal suo punto di vista, ma se ho capito bene la sentenza di oggi dice non ci sono scuse. No, non ci sono scuse e soprattutto la Corte di Giustizia dice che le politiche italiane mirano soltanto a rinviare il rientro nel rispetto, in certi casi anche di 20 anni. Questo è chiaramente contro l'obiettivo della direttiva, che è di proteggere la salute. Gli impatti dell'inquinamento sono terribili in Italia. Ogni anno si stima che quasi 60.000 persone muoiono prematuramente per l'esposizione al particolato. Stiamo pagando un dazio altissimo ed è inaccettabile. Sì, sentiamo un po' male, Taddei, non so, forse è un problema di linea, le chiedo se può parlare a voce un po' più alta, perché probabilmente la linea non è al massimo e quindi ci perdiamo qualche pezzo. Le voglio chiedere anche questo, non è un problema solo italiano questo, perché so che voi avete fatto ricorsi, siete una ONG europea in Italia contro governi regionali, ma anche in Germania, in Gran Bretagna. Qual è un po' il quadro di queste azioni? Cosa possono fare effettivamente le regioni, i governi per risolvere questo problema, che sembra, vuoi dire, un problema sovranazionale? Cioè l'aria è inquinata e dipende da fattori molto importanti, molto grandi. Nessun governo, credo, da solo è in grado di fare qualcosa. L'Italia è uno dei paesi purtroppo più inquinati in Europa. Ci sono delle misure chiare che possono essere adottate e, ad esempio, adesso con i piani di rilancio è possibile adottare delle misure che faranno sì che le nostre città saranno sane e non inquinate quando riniziamo. Per esempio in Germania il governo ha deciso che gli aiuti alle case produttrici di auto andranno soltanto a veicoli non inquinanti, quindi hanno escluso veicoli diesel e benzina nei piani di rilancio. Ci sono misure per sostenere i trasporti pubblici nelle città o sì, le piste ciclabili, la mobilità attiva e pulita. Tutti i soldi che verranno messi in atto dal governo adesso potrebbero aiutare le nostre città a diventare dei luoghi più puliti e sani. Questo è essenziale. Grazie Ugo Taddei, ci fermiamo qua, anche perché, ripeto, la linea non era al massimo, ci scusiamo con gli ascoltatori, a volte può capitare. Comunque la notizia avete capita, c'è questa sentenza che fa parte del procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia. Il prossimo passaggio sarà la sanzione vera e propria, così come è accaduto anche in altri ambiti, come per esempio quello delle discariche dei rifiuti. Staremo a vedere. 13:30, facciamo un piccolo break, poi torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza Covid, cresce la pressione per un lockdown nazionale, 5 nuove regioni arancioni, il Viminale controlli più serrati sugli assembramenti. L'RT in Italia è stabile, dice però il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli, segno che c'è decelerazione merito delle misure adottate. Smog, la Corte Europea boccia l'Italia, tra il 2008 e il 2017 violati sistematicamente i limiti di polvere. Cala la produzione industriale, a settembre meno 5,6%, resta però forte il rimbalzo nel trimestre, più 28%. minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Un aggiornamento per quanto riguarda la conferenza stampa di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha parlato anche della Campania, su cui il governo si è preso un giorno di più dopo che ci sono stati anche i NAS in Campania per verificare la corrispondenza, insomma, dei dati alla realtà oggettiva di quella regione, che potrebbe diventare arancione. Dice Brusaferro: sono in corso ancora gli approfondimenti, riteniamo validi i dati della Campania, ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare un'analisi che è ancora in corso. Insomma, tra qualche ora sapremo anche le sorti della Campania. Adesso è il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. La matematica è politica è il titolo di un bel libro di Chiara Valerio, che è Matematica e letterata insieme. Oggi si deciderà la sorte della regione Campania e il suo eventuale passaggio a zona rossa, dopo che altre 5 regioni hanno già preso il colore del lockdown, sulla base di numeri per l'appunto, e in questo caso la matematica più che politica è potere, magari con il rischio che possa anche diventare sopruso se la raccolta dei dati è inefficiente e discutibile. Sono tempi insicuri e lo scudo dei numeri non sempre aiuta, soprattutto se non sono trasparenti e disponibili per tutti. Il Covid ci ha portato anche questo, ha scalfito la certezza dogmatica del dato e l'ha ricondotta nella perfettibilità umana. Il presente è preda dell'incertezza che, come insegnano gli economisti e come temono molto i banchieri centrali, è molto peggio del rischio. il rischio lo puoi calcolare e la legge delle probabilità ti aiuta a disegnare il coefficiente della speranza. L'incertezza no, è la nebbia che avvolge il futuro, una coltre che sbianchetta le tracce dei numeri e l'azzardo delle probabilità. Ci lascia procedere a tentoni, come fosse sempre buio. E il buio, come è noto, amplifica le paure e soprattutto non aiuta a cambiare direzione. Adesso proviamo a vedere anche se c'è un po' di luce in fondo al tunnel, perché effettivamente diciamo che da Bergamo ci arriva una notizia che può essere letta positivamente. Ci perdonerete se insomma stiamo parlando di persone che soffrono, malate, gente che sta in ospedale con una polmonite, persone che muoiono anche se hanno 80 anni per una polmonite, però sono numeri e trattandoli come numeri sembra che da Bergamo arrivi in un'indicazione. Ne parliamo con Alberto Zucchi, che è direttore del servizio epidemiologico dell'ATS di questa città. Benvenuto Zucchi. Grazie, grazie a voi e grazie anche ai vostri ascoltatori. Allora, qual è il numero di cui stiamo parlando? È questo, il fatto che diciamo il rapporto tra tamponi effettuati e tamponi positivi, secondo l'ultima rilevazione, è inferiore di quasi la metà a Bergamo rispetto al resto della Lombardia. È questo una, come dire, un dato che ha fatto riflettere, e lei è stato tra i primi in qualche modo a sottolinearlo, perché sembra che ci sia, come dire, un'incidenza minore a Bergamo dopo che c'è stata la grande ondata tragica di marzo, aprile e maggio. Sì. Di cosa possiamo parlare? Di una sorta di immunità che si sta creando? La questione, come potete immaginare, non è semplice da sintetizzare. Sicuramente la situazione attuale di Bergamo risente da ciò che è avvenuto durante la cosiddetta prima ondata, il fatto che la provincia di Bergamo sia stata quella che da un punto di vista epidemiologico e dal punto di vista purtroppo anche degli esiti negativi sia stata la provincia più colpita in Italia e probabilmente tra i territori più colpiti al mondo. Al mondo, certo. Sicuramente. Ha determinato di converso in questa fase di seconda ondata la presenza molto probabilmente di un'immunità, non parliamo di immunità di gregge perché è un termine tecnico che presuppone delle soglie che sono molto elevate, inteso in senso e dalle quali siamo lontani comunque. Dalle quali siamo apparentemente lontani per quanto possono dimostrare i dati. Noi abbiamo raccolto vari studi di sierologia sul nostro territorio, abbiamo delle zone che sono quelle famose diciamo della Valle Martire, vorrei dire, della prima ondata, che è la Valle Seriana, così come alcune zone della Valle Brembana, di Bergamo città stessa, che hanno raggiunto dei tassi di sieropositività ai test sierologici del 42%, vuol dire che i soggetti testati avevano espresso a distanza di qualche mese dall'evento l'evidenza di un sistema immunitario che aveva espresso i segnali di un contatto con il Covid. Questo di converso, come stavo dicendo prima, ci porta anche a sostenere che esiste un'immunità di popolazione che, ripeto, non mi permetto di chiamare immunità di gregge, ma che è sicuramente molto diffusa in provincia di Bergamo rispetto a territori che sono stati meno colpiti dalla prima ondata. A ulteriore testimonianza di quello che dico, anche all'interno della provincia di Bergamo ci sono differenze tra i territori di cui abbiamo parlato 30 secondi fa, con altri territori come la Bassa Bergamasca, quindi la zona del Trevigliese, di Romano di Lombardia, la zona di Dalmine dell'isola Bergamasca, che sono quei territori che erano stati precedentemente meno impattati e che ora invece sono più critici dal punto di vista dei contagi. Sono anche, peraltro, i territori che sono storicamente, da sempre, più a stretto contatto con le realtà produttive del Milanese e della Brianza. Ecco, Zucchi, ma al di là di questa analisi anche territoriale, no, che ci stava facendo, le voglio chiedere però un'altra questione, che è il tema spinoso dei casi di contagi di persone che ritornano, cioè che tornano ad essere contagiate. Facciamo, dato che siete stati un territorio, il primo territorio colpito, avete registrato qualcosa di questo genere, per esempio? Allora, il tema è estremamente interessante. Stiamo per iniziare a studiarlo in maniera seria, scientificamente molto ponderata, con i colleghi infettivologi della provincia. i dati di cui noi abbiamo contezza, perché noi abbiamo qualunque dato su ogni tampone effettuato sui cittadini bergamaschi fin dal primo giorno dell'epidemia. Sì. Quindi siamo in una condizione di osservatorio ideale per andare a verificare questo tipo di problematica. Dato che ne avete avuti tanti, se dovesse essere malauguratamente sareste tra i primi a dovervene accorgere. Saremo probabilmente tra i primi a evidenziare la presenza di una reinfezione. O io preferisco dire, ne parlavo ieri col primario di infettivologia, il dottor Rizzi del Papa Giovanni, che avete visto in TV da tutte le parti, è bene usare il termine ripositivizzazione nel caso, che sembra una sfumatura un po' tecnica, ma è una differenza molto importante, nel senso che essendo tutto molto legato al processo di valutazione di un tampone, la definizione di positivo o meno, e sappiamo che i tamponi hanno nella loro margini. Certezza hanno dei margini però, di errore. Zucchi, prima di salutarci, ci lasci con un'indicazione questi possibili casi. A nostro avviso finora ci sono segnalazioni aneddotiche. Al mondo ci sono più o meno 20 casi di vera reinfezione ed erano tutte quelli pubblicati su riviste. Quindi parliamo di una cosa infinitesimale rispetto ai milioni di casi. In questo momento, esatto, infinitesimale. Comunque una cosa stiamo vedendo noi a Bergamo in questo momento è ci sono delle probabilità molto elevate che si tratti di un problema di falsa negatività dei tamponi. Chiaro, chiarissimo. E non delle vere reinfezioni. Assolutamente. E questa è una cosa su cui comunque voi a Bergamo state lavorando e state monitorando, per cui Zucchi io la ringrazio intanto e l'impegno è anche a risentirci, perché sicuramente se questo fenomeno malauguratamente dovesse accadere sarete voi i primi a accorgervene, visto che avete un 40% di gente che ha già gli anticorpi. Va bene, allora noi come sempre ci fermiamo un attimo e poi torniamo con lo sguardo internazionale di Giulia Crivelli ed Effetto Mondo.